Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. E una volta lì, pensai di correre fino alla fine della città. Il presidente Carter, per un collasso, è svenuto tra le braccia degli agenti di... E una volta lì, pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama. E così feci. Corsi attraverso tutta l'Alabama. Avete appena sentito una clip tratta da Forrest Gump, un film di Robert Zemeckis del 1994, Oscar 95. Ora, quella di Forrest Gump può essere una metafora del piccolo imprenditore italiano. Il piccolo imprenditore italiano in fondo che cosa fa? Affronta sfide che sembrano impossibili. È perseverante, fa le cose passo dopo passo, va avanti anche se tutto sembra contro di lui. L'unica cosa è che Forrest Gump non è molto intelligente, invece i piccoli imprenditori, soprattutto se sono di successo, sono abbastanza scaltri oppure, come direbbero gli americani, smart. Oggi però la piccola e media impresa si trova alle prese con delle sfide pazzesche. Queste sfide si chiamano Industry 4.0 e nuove tecnologie. Ora, noi non sappiamo se davvero l'Industry 4.0 aumenterà la produttività delle aziende, perché non ce n'è evidenza nelle statistiche attuali. Però sappiamo che l'Industry 4.0, la robotica, le nanotecnologie, le stampanti 3D e soprattutto la globalizzazione crescente, la nascita di distretti globali, la concorrenza fortissima, porteranno una ventata di cambiamento pazzesca, e con questa ventata di cambiamento bisognerà misurarsi, altrimenti si chiuderà. C'è un'interessante statistica sull'età media delle aziende dello Standard & Poor's. Allora, nel 1957 l'età media era 75 anni di età, nel 2003 era 25 anni, nel 2013 10 anni. Dunque, o ci si adegua al cambiamento e si cerca di cavalcarlo, oppure si muore. Di tutto questo ne parliamo oggi con Francesco Ferri, che è un consulente, ha fondato una piccola società di consulenza ma molto smart, come i piccoli imprenditori di cui parlavamo, è una società che sta a Cinisello e che lavora molto in Lombardia, anche a Monza, e lui ha individuato una Italian Way all'Industry 4.0. Buongiorno intanto. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, che cos'è questa Italian Way all'Industry 4.0? Ma partirei da quello che è l'esigenza di tante piccole e medie imprese, come diceva giustamente nella sua introduzione, che è quello di aumentare la produttività. Quindi lo scopo di applicare un Italian Way all'Industry 4.0 è quello di aumentare la produttività. La produttività è o aumentare il valore di quello che paga il cliente o ridurre i costi. Sulla parte di riduzione dei costi, Industry 4.0 dà un'occasione veramente a tutte le aziende, piccole, medie o grandi che siano. Da che punto di vista? Da un punto di vista proprio di recupero di costo del lavoro per unità prodotto. Perché? Perché Industry 4.0 permette alle proprie persone di lavorare in maniera più efficace ed efficiente. Concretamente che cosa vuol dire? Cambiare il paradigma su cui siamo abituati a lavorare con i nostri dipendenti, siano essi white collar o blue collar, dandogli degli strumenti che gli permettano di fare più smart working, quindi più lavoro in maniera collaborativa, efficiente, comunicativa e di condivisione dei dati, al fine di ridurre i tempi morti e soprattutto di digitalizzare tutte quelle operazioni che, fatte in maniera ancora cartacea o manuale, di fatto tolgono semplicemente tempo al lavoro produttivo. Faccio esempi concreti. Perché al tempo di oggi dobbiamo ancora entrare in azienda usando il badge invece di usare il nostro smartphone, che invece è perfettamente compatibile per registrare il nostro accesso, la nostra uscita dall'azienda? Perché dobbiamo ancora ricevere gli ordini di servizio in modo cartaceo? Perché dobbiamo fare la nota spesa in maniera lunga e complessa, magari in maniera cartacea ancora una volta? Sono tutti piccoli esempi di che cosa vuol dire anche per un blue collar, e noi l'abbiamo implementato in tante aziende metalmeccaniche, anche della meccanica pesante, brianzole, che quindi hanno magari un grado di resistenza al cambiamento particolarmente elevato da un punto di vista di adozione delle nuove tecnologie, soprattutto per gli operai, quindi per chi fa un lavoro prettamente ripetitivo. Ecco, tutto questo è possibile farlo grazie all'utilizzo di quello che sono gli incentivi alla digitalizzazione e quindi all'usare le opportunità del cloud, della collaborazione smart, che mette a disposizione Industry 4.0 con anche un punto specifico previsto dal piano Calenda per Industria 4.0. Ecco, prima di andare avanti, diciamo che la sua società si chiama Innext. Corretto. E sì. Voi cosa fate? Noi nasciamo come società di consulenza tradizionale, quindi accompagniamo le medie imprese italiane nelle fasi importanti di cambiamento, in particolare il passaggio generazionale, la internazionalizzazione in Cina dove abbiamo la nostra sede e la ristrutturazione aziendale sia dal punto di vista dei processi che dell'organizzazione. Sempre di più negli ultimi anni ci siamo resi conto di come in realtà questa parte vada integrata con una parte di soluzioni tecnologiche, per cui abbiamo scelto una partnership forte con uno dei principali provider mondiali di tecnologia innovativa che è Google, grazie al quale portiamo in azienda anche tutta questa parte appunto di digitalizzazione dei processi core e no core che si integra perfettamente con la consulenza organizzativa, quindi per far fare questo salto di qualità alle aziende italiane. Ecco, torniamo all'Italian Way, all'Industry 4.0. Il problema, insomma, è che non c'è abbastanza produttività perché molte aziende non sono organizzate in modo ottimale. E qui nasce l'altra faccia della medaglia di quello che vuol dire Industry 4.0, cioè non solo di come si possono ridurre i costi, ma di come si può aumentare il valore percepito dal cliente. Il valore percepito dal cliente aumenta se c'è interconnessione fra tutti i punti della filiera, quindi dal fornitore di materie prime, semilavorati, alla produzione in azienda, fino alla vendita, all'after sales e quindi alla esperienza che il cliente ha del nostro prodotto. Come si fanno a interconnettere tutti questi pezzi della filiera dando maggior valore, quindi maggiore prezzo ai nostri prodotti? Ancora una volta con soluzioni tecnologiche che permettono veramente di interconnettere tutti questi pezzi della filiera dando maggiore valore al cliente. Un esempio concreto può essere un produttore di mobili che abbiamo seguito, il quale ha cominciato a mettere dei semplicissimi sensori forniti da uno dei leader mondiali di sensoristica sui propri semilavorati che vengono montati in fabbrica, vengono distribuiti in centri commerciali, centri uffici, luoghi di aperti al pubblico o a semplici privati. Grazie a questi sensori è possibile, da un lato, attraverso ancora una volta il proprio smartphone, raccogliere il proprio laptop, raccogliere i dati di utilizzo da parte del consumatore finale, il tipo di utilizzo che fa di quel mobile. Quindi imparare se viene usato più di giorno o di notte, se viene utilizzato più per lavorare che per studiare, se viene utilizzato in determinate condizioni atmosferiche. Che esperienza ha concretamente il consumatore di questo tavolo, di questo mobiletto o di questa sedia? Questi dati vengono accumulati dall'azienda che grazie all'accumulo di questi dati riesce a migliorare da un lato la qualità del prodotto e quindi a dare un'esperienza più di valore aggiunto al cliente, veramente con un feedback one to one con il cliente. Dall'altra parte serve per fare manutenzione predittiva, perché la fabbrica impara quando il mobile sta per rompersi e manda l'assistenza prima che il mobile si rompa, quindi facendo in modo di ottimizzare i propri giri di manutenzione e assistenza da un lato e facendo dall'altra parte. Ecco, questo insomma è un esempio classico di Industry 4.0. Però abbiamo toccato un tema che mi sembra molto interessante. Lei magari lo evade un po' perché fa PR con le aziende che possono essere clienti. Il problema è che molte aziende sono organizzate male e che da una cattiva organizzazione poi viene fuori una riduzione della produttività che addirittura in certi casi fa sì che poi si facciano tagli del personale, tagli di costi o sacrifici dei quali forse con una migliore organizzazione si poteva anche fare a meno se si fosse intervenuti prima. È un punto cruciale e le rispondo da tre punti di vista, cioè dal punto di vista strettamente organizzativo certamente questo è un momento in cui tante aziende italiane si stanno reinventando veramente per cercare di affrontare la sfida di quello che è una maggiore managerializzazione. Se poi però andiamo, l'altra cosa che ci tengo a sottolineare dal punto di vista di Industry 4.0, questa è un'occasione unica, c'è molti studi che parlano del fatto che Industry 4.0 per le aziende italiane è un leapfrogging, quindi un salto di qualità determinante che può veramente farci recuperare. Leapfrogging sarebbero leap sulle labbra, frog la rana, spiega la metafora? È un modo che gli americani utilizzano per dire quando c'è veramente un salto quantico da un punto di vista. Baciare una rana. Per far diventare un principe. No, è un modo per dire quando c'è veramente un salto determinante da un punto di vista quantico. Cioè tu riorganizzi l'azienda grazie alle tecnologie e guadagni esattamente. E questa... ammesso e non concesso che gli imprenditori italiani o almeno alcuni di essi vogliano investire, perché come è venuto fuori anche da un'indagine di Federmeccanica, molti non hanno intenzione di investire e io stesso anche i miei libri ho teso a evidenziare per amor del vero che non tutti gli imprenditori sono dei santi e degli eroi, ci sono anche quelli che non vogliono investire perché tesaurizzano per pigrizia, per atteggiamento rapace, c'è una generazione, una quantità di imprenditori che non ha i soldi e non può, poi ci sono quelli che non capiscono, e poi ci sono semplicemente quelli che non vogliono spendere, pensano di andare avanti così o magari di fare delle casse integrazioni, di tagliare il costo del lavoro. Ma sai, io ragiono da imprenditore, anche se sono un piccolo imprenditore di prima generazione, so quanto invece è importante investire, e francamente tanti degli imprenditori che ho conosciuto ragionano in questo modo, cioè con la consapevolezza che in realtà le risorse umane, gli investimenti, il miglioramento della propria azienda è la cosa più importante, tante volte più importante addirittura della famiglia. Ci ho detto però, oggi abbiamo un'opportunità in più, che è il piano Calenda, il piano Industria 4.0, quindi l'iperammortamento, superammortamento, il credito di imposta per la ricerca e sviluppo, la socializzazione delle perdite per aziende, per investimenti in start-up, la possibilità veramente di pensare di medio periodo, nei prossimi 4-5 anni, quali sono gli investimenti indispensabili che si ripagheranno da soli grazie a tutti questi incentivi di cui ho appena parlato e che occupano complessivamente 23 miliardi fino al 2020. Certamente. E quindi diciamo che anche dal punto di vista dell'investimento, oggi investire non è più solo necessario per il ragionamento che facevamo prima, ma diventa conveniente, ed è per questo che sono convinto che tanti imprenditori approfitteranno di questo momento per riorganizzare grazie alle tecnologie la propria azienda. Benissimo, ci interrompiamo un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità, restate con noi. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo è la stoccata, la conferma la stoccata. Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui, su Radio 24. Fabbrica 2.4. Giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. E una volta lì, pensai di correre fino alla fine della città. Il presidente Carter, per un collasso, è svenuto tra le braccia degli agenti. E una volta lì, pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama. E così feci. Corsi attraverso tutta l'Alabama. Rieccoci in linea, Fabbrica 2.4, siamo qui in studio con Francesco Ferri di Innext e parliamo della Italian Way all'Industry 4.0, che sarebbe un'Italian Way che potrebbe permettere all'imprenditore italiano di fare un salto in avanti di produttività. E vi abbiamo ancora fatto sentire una clip di Forrest Gump, perché è un po' la metafora del nostro imprenditore e soprattutto del piccolo imprenditore. Sento una cosa, un tema molto importante legato alla riorganizzazione in chiave Industry 4.0 è passare da una catena del valore verticale a una orizzontale. Lei riesce a spiegarci in termini molto semplici che cosa vuol dire? Vuol dire che la parola chiave di Industry 4.0 è davvero interconnessione, quindi interconnessione fra tutti gli attori della filiera, sia in senso orizzontale che in senso verticale. In senso verticale è quello che tradizionalmente ogni azienda fa da più o meno 20-30 anni. Tanti imprenditori mi dicono: ma io l'Industry 4.0 la faccio da tanto tempo. È vero, perché quando si fa Lean Manufacturing, si fa Six Sigma, si fa ottimizzazione dei processi, si fa Total Quality Management, si cerca già di interconnettere i punti della propria filiera, del valore all'interno della propria fabbrica. Il punto fondamentale è utilizzare le nuove tecnologie per interconnettere ancora più velocemente e semplicemente i vari punti della filiera, dando quindi una maggiore efficienza. Orizzontalmente invece vuol dire connettere di fatto tutti gli attori esterni e interni all'azienda con il consumatore intermedio e il consumatore finale. E questo lo si ottiene ancora una volta grazie alla tecnologia, integrando i fornitori grazie a dei supplier management system, integrando i clienti intermedi o i distributori grazie a dei meccanismi di interazione costante, integrando i consumatori finali con quello che dicevo prima, quindi soluzioni di Internet of Things o di Big Data Analytics, certo, questo che consentono è molto chiaro di raccogliere sulla i dati. Catena del valore orizzontale, sentite qua. Nel mondo industriale, la supply chain è il sistema di attività, persone, informazioni e risorse necessarie per trasferire un prodotto o un servizio dal fornitore al cliente. In altre parole, la supply chain è la catena necessaria a trasformare risorse naturali, materie prime e componenti in un prodotto finito che viene consegnato al cliente finale. Comprende gli acquisti, il magazzino, i trasporti, la manifattura e tutti gli altri passaggi fino ad arrivare allo scaffale o alla consegna a domicilio. Nel mondo che precede l'Industry 4.0, la supply chain è organizzata in silos verticali. Ci sono la produzione, la logistica, gli acquisti e il marketing, ognuno con il suo responsabile. Non sempre dialogano tra loro e molto raramente condividono la totalità delle informazioni. L'Industry 4.0 implica una totale rivoluzione dell'organizzazione aziendale. La supply chain diventa verticale e in azienda non esistono più silos separati. Tutti dialogano con tutti e la condivisione delle informazioni è totale. Ciò significa che ogni ruolo deve conoscere bene anche le dinamiche degli altri ruoli. Il marketing, per esempio, dovrà avere una buona conoscenza della produzione e delle sue dinamiche, e viceversa. Il sistema di formazione dei prezzi al consumo, che è considerato materia di marketing, per esempio, sarà dinamico. I prezzi, in altre parole, potranno mutare continuamente, e le implicazioni di ciò per la produzione sono evidenti. Tutto questo significa anche un profondo mutamento delle competenze, che saranno sempre più eclettiche e multidisciplinari. Inoltre, il sapere letterario e filosofico sarà di grande utilità per comprendere queste dinamiche totali e anche per interpretare l'enorme mole di dati, big data, generati da sensori posizionati su ogni componente. L'allineamento di tutte le informazioni e contemporaneamente di tutti i processi aziendali ridurrà moltissimo i costi. Non saranno quasi più necessarie scorte, magazzini e altre forme organizzative che impegnano molto capitale. Il just-in-time sarà generalizzato e l'efficienza massima. Ciò ridurrà anche la manodopera, quasi azzerando il numero di persone che svolge lavori semplici o ripetitivi. Certo, ci saranno più persone che svolgono lavori ad alto valore aggiunto, ma difficilmente il saldo andrà in pari. E non tutti i lavoratori potranno essere riposizionati o formati per svolgere i nuovi mestieri del mondo interconnesso. L'allineamento portato dall'Industry 4.0 non sarà solo dentro i confini aziendali, ma anche fuori. La condivisione delle informazioni, infatti, riguarderà anche clienti, fornitori, trasportatori, istituti di credito. La supply chain orizzontale sarà totalizzante. Ecco perché l'Industry 4.0 non sarà solo una rivoluzione produttiva, qualcosa che riguarda le fabbriche, ma una rivoluzione anche sociale, culturale, sindacale e politica. Le nostre vite stanno per cambiare profondamente. Eccoci in linea, stavamo parlando dell'Italian Way all'Industry 4.0. Senta, ma poi tutto questo significa in pratica reinventare i modelli di business? Assolutamente, vuol dire veramente considerare come al giorno d'oggi le soluzioni tecnologiche permettono veramente di ripensare il nostro modello di business sia da un punto di vista della produzione che della distribuzione che del servizio, veramente pensando anche in business che tipicamente sono business to business, di come tramutarli in business to consumer. Per cui anche un produttore di impiantistica di verniciatura per l'automotive che fa, quindi che vernicia le scocche, può grazie alle scocche che sono sensorizzate raccogliere dei dati dal cliente finale in modo da migliorare il processo di verniciatura, migliorare quindi il costo e migliorare dal punto di vista della fabbrica che fa le auto la marginalità che fa con i propri clienti. Reinventare il modello di business però lo si fa in una maniera step by step, quindi tutte le aziende, la piccola, la media, la grande, possono darsi quei fattori abilitanti che ancora una volta si chiamano cloud, si chiamano smart working, si chiamano digitalizzazione dei processi non chiave, che poi permettono veramente di velocizzare il processo di rinnovamento del proprio modello di business, arrivando fino a fare quello che ho appena detto, che è un esempio molto alto ma allo stesso tempo raggiungibile. A proposito della reinvenzione dei modelli di business, questo forse richiederebbe anche uno svecchiare le aziende. L'Italia in generale un paese vecchio, di vecchi e per vecchi. Ci sono i settantenni, gli ottantenni al potere, spesse volte le aziende sono in mano di famiglie che poi nominano in posti dirigenziali degli eredi che assolutamente non lo meritano, e questo riduce la produttività dell'azienda stessa. E i talenti migliori vengono pagati poco, e oggi, visto che tutti sanno l'inglese e sanno come muoversi all'estero, francamente io, neolaureato, a un mio figlio, se ce l'avessi, consiglierei di andare altrove e non certo di stare qui. Un ingegnere neolaureato qui prende 20.000 euro, uno neolaureato anche italiano che sappia tedesco in Germania ne prende 45.000. Lei che cosa ne pensa di questo aspetto? Credo che quando ho deciso di fare la mia azienda a 28 anni, ogni tanto poi negli anni successivi mi sono pentito di non avere seguito la carriera che hanno fatto tanti miei amici dell'università, che sono rimasti in multinazionale a fare quindi una vita ben più comoda. Però dall'altra parte, quindi perché? Perché ho faticato tantissimo e fatico tutt'oggi, ci sono dei tetti di cristallo che è veramente difficilissimo sfondare. E arrivando quindi al merito della sua domanda, è assolutamente necessario al giorno d'oggi veramente abbassare l'età media nei posti di comando, premiare il talento e il merito, semplificare le norme della burocrazia che ammazzano le piccole imprese, sburocratizzare, liberalizzare dei settori che sono ancora in mano a degli oligopoli senza alcun senso, e soprattutto cambiare anche alcune regole di funzionamento fondamentali del nostro Stato, senza i quali veramente tanti giovani non vedono più in Italia un posto in cui realizzarsi, mentre questo paese per me è veramente il paese in cui io voglio stare e voglio continuare a dare da lavorare a tante persone, così come ho fatto in questi 12 anni. Certamente, c'è da sperare che questo si faccia, perché è una cosa che vale per la politica ma anche per le aziende. Assolutamente, e a maggior ragione, visto che adesso stiamo vedendo una fase di rinnovamento nella politica da un punto di vista di età, è necessario cogliere la palla al balzo. Non è possibile che nelle 5.000 imprese medie italiane, che sono quelle sopra i 300, fra i 50 e i 300 milioni di fatturato, l'età media della leadership sia ancora superiore ai 67 anni. Questo è un punto che in tutti gli altri paesi del mondo siamo almeno 7 anni di età inferiori. Quindi agiamo anche in questa direzione, dando veramente più spazio a chi merita e chi ha talento. Va bene, ringraziamo Francesco Ferri, che risentiremo in altre trasmissioni. Grazie. Grazie a lei, grazie a tutti per l'opportunità. Vi saluto, ci sentiamo domani alle 13:10.